c'è nessuno? E sei tu, Ufo, non mi tuci. No, mi ha bevuto il caffè adesso e mi ha mangiato una formaggella alla ricotta. Bravo, bravo. Io mi sarò da fare la spesa, e poi se stasera scendo giù in piazza, facendo in festa, sempre se non piove. Quando da male animali, non ci chiama piove, la sta facendo da bravo, però gli sono una fucilata l'acqua, quelle nuvole. È vero, vabbè, dai, se ci sei dopo, grazie. A dopo, dai, che stiamo andando a fare la spesa, sono sì, qua tardi. È un casino. Prendiamo anche i primi posti. E che cazzo, mi la mangio dal balcone, c'è il primo posto rialzato. In teatro. No, solo detto che vieni a casa a due, a battermi a casa a due, andavo balcone. E non fa, dai, scherzando. Hai visto che ne è crollato un albero, l'hai visto? No, come isolato? Crollato un albero sotto il terrazzo di Marina, quello alto dei pini, proprio radicato da solo alle 3 del mattino più o meno. Ah, ma quello c'è da dietro, non davanti alla piazza, dietro. Praticamente rimane dietro ai gazebo, non c'è da sbagliare. Marina c'è il gazebo sotto, dai, diciamo, e l'albero è lì. Bastava un metro in più, due metri in più e gli avrebbe distrutto il gazebo anche. Ah, dove ci sono due gazebo bianchi, quell'albero che c'era lì dietro, sei già là. E sarà, allora. E di notte, no, me lo sono accorto, oppure stavo guardando la mattina. E quello perché non l'hanno levato quando stavano tagliando, eh? Nemmeno Marina se ne è accorta, capito? Tutti te li si era gaffato, gli hanno grido, vedi che i giardini non ne hanno avvistato altri, li hanno lasciati luci come sono. Non ho capito, no. Che nei giardini, quelli piccoli che ci sono, non ne hanno fatto manutenzione agli altri. Ah, ecco, paghito, allora. Ma vabbè, comunque c'è uno strano. Vabbè, che è un modo pesante, tutto questo domani mattina. Dopo le finisco sta festa, lo sai. Vabbè, fanno tutto qua. Qui, lo sai quanti anni eravamo per tagliare questi alberi che ci sono dalla parte di qui? Minimo di 10 anni, sono andato 10 buchi a filare i salvi. Hanno voluto anche certificati medici di quelli malati che ci sono qua. Per chi c'ha l'acqua, a chi un bagliente mi la via 30 un gas all'albero, si butti, non si più riaccia la... Via, per carità, sono dei freghisti, capito? Vabbè, vai, a parte la spesa, adesso me ne sento tutto. Sto facendo una ricerca. Ehi, a dopo, ciao. Ehi, che è acceso questo? Sempre acceso, sul marmo. Ho ben malissimo, apri, con la spesa. Ehi, stamattina l'ho incontrata Gio Maria, dai, 5 minuti, era lì vicino, in zona di casa mia, dai. E vabbè, e anche lui ha detto che non c'è più nessuno, aveva ragione, non c'è più nessuno infatti, tutto abbandonato. Vabbè, a dopo, ciao. Ehi, tutti lunghi. Bello beh, ci sei, bello beh. Grazie, ho dormito, sì. A te, mio gufo, ecco la sceriffa. Smettila, sono diversa. Non voleva dirmi. Come? A te, mio gufo, dormitoci. Grazie, ci sei. Graziano. Ehi, mi sto cucinando la trippa. Mi inviti? Siamo già in truppi. Siete alla banca, mi buoni a me. Oramai, me lo dicevi prima. tre fagioli, e cura capiboni. Tu sempre sempre prima me lo devo aumentare, a invitarmi. Passare, mangia un pezzo di pollo bianco. Pezzo di pollo, tartare di seno, mangia, grazie. È sicuro, no, ma di tu maletta, fermo i pettini di pollo impalati, lagami i bigli, io mi faccio la bruschetta, i pettini ti rimangi tu, e tu ti mangi i pettini impalati, avrà buco. Sì, grazie, cosa la buco? La bruschetta è quello di dietro che si vuole girare, la va dove è la trippa. Il sassarese buseca, trippa si chiama. È quella che abbiamo noi, dai. Sono noi, io, tu, un po' Marina. Guarda che a Luca però la zuppa con i fagioli non gli piace, quindi la prossima volta falla la parmigiana. Allora, parmigiana e olive, è buona retta, E un bel zibanini, non ho ancora zibanini, mi devi comparare. Sono qui di ziburro. Già lo so, è buona anche la parmigiana, la trippa. Cosa c'è adesso in piazza a salute se non vi offri? Ciao, su nome, ciao Paolè, ti ho sentito, basta. Ciao Paolè, non lo sappiamo la verità, perché ieri c'erano la commedia però assaltata, adesso dovrebbero essere, boh, penso canzoni sassaresi, ma non siamo sicuri. No, sicuramente c'è, sì, canzoni sassaresi stasera. E poi domani è domenica. No, domani è sabato. Domani è sabato, che sarà l'ultimo giorno. Ma non si sa. Ma meno che recupero la giornata, ma non credo, perché poi la gente lavora lunedì, capito? Ciao, ma questa volta l'ho fatta giovedì, venerdì e sabato, niente domenica. Sì, perché ieri hanno perso una serata, purtroppo ha diluviato. E niente, adesso... hanno venduto dei biglietti e qualcosa devo recuperare, perché anche, hanno comprato anche i premi come l'anno scorso, c'erano televisori, telefonini, computer, fotocamere, sicuramente. Ma ci pigliato, l'hanno passato in altro minuto lì. Stavo sempre pigliando lì, lo feria e lo bello fin qua, la capisci? Allora, se non erro, l'ha visto una signora al televisore da 42 pollici dalla Samsung, mi pare, leggi. Oh, vabbè. Ah, vabbè, che muscianuti, cosa? Vediamo che non piove, a chi no, bobo. Non so se come so, come so, mamma. Vabbè, voi tanto ci avete una bella mangiucchiata di coso, di... si chiama di trippa, buona ridda, mamma mia. L'avevamo fatta a mezz'unità per la migliore, cosa? Non sappiamo cosa fa. Lu, cazzo, con questo tempo non posso ne mancarti di rubo. Speriamo domani che rubo si abba, boh. È buona. No, noi stanotte mangiamo la pizza, dai. Una pizza qua però. Io ho preso panda e pizzeria, mia voce, pizzeria, ho preso a pochi di nava, ho finiti. Vabbè, ci siamo pure molto ringraziati, siamo soli, nel video, veniti a caso, l'altra ha fatto da rudrare ancora, quindi lui, siamo soli soletti. Sì, vole, seccare le mani, vi. Avrà già seccati per le mani, sempre bussato, usata fai tenni e io sempre fenni tu e tu pigliavo parimberi era usata per impegnare parimberi no non voglio fare altre cose io a tu grazie mia Maria ce l'aiuto non molto poi ce l'aiuto quello Maria no ah maledetta ma tu hai aiutato le vostre più nulla non faccio niente va bene sono andato a buttare la modesta, ho apparecchiato, cosa vuoi? Ho messo a saldare il pollo, ho detto che ho cucinato, non ho fatto niente. Boh. Allora verranno tutti quanti la ciuffa, il palazzo tuo è a Bedellì. Chissà è brutto, ma se qualcuno ha telefonato ma non vi venne. Ah, fino a lunedì, oh! Sì, Paolo, sono già venuti dal comune a controllare e hanno detto che lo rimuovono dopo la festa, dai, lunedì. Sì, perché hanno detto che non è pericoloso. Aveva che ne è pagato, sappiamo da qualcuno anche che questo abbia fatto. Il cura è di matti. Che ha già detto che si sta pure lui, pure gli anni, i zigati, come se no, che noi ne avevamo uno, di pino, come se si stava a fare i figli. E l'angurongo, a che rimani un poco grosso, gli osso, lo ramo, e su rimane fine e fine. E ora ti credi che tu riassai che scrivi la prima palazzina, fine e mira. Furia, ne ero manco si cade a puttare di rello. Io ho messo il video, la figlia di Giovannino, Noemi. Che loro ci sono, però mi sa che mi fa l'aria, Oh, ya, yeah. Ero manco un gatto a fa domani, stanno tattata, manco con poveraccia abbiamo fatto qualche cosa, oh, yeah. Si grazie a me, braghe, muovi, fino a modo, stasera, vabbè, mi grazia. E io me in cucina. Un cugino con un computer, che su computer per ancora a capo. Sai che se guardano le mani, mi. Io che avete niente il fucile. La dite mi chiedo per il fucile e il caro, Luca. Il fucile tu lo fai pure, buonanotte. Vabbè, ognuno di noi è, sa, al suo vino. C'è chi piace la carne da pesca, i motori, sai, a lui piacciono i fucili. A me piacciono molto le pistole, la verità, però non so chi va a controllare, vediamo tu gustano, io, perché costano un bel di soldi. Vorrei prendere il porto d'armi, piacerebbe avere una pistola, però un casino. Prego da te, Marina. Mi telefono in mano, parlando di Facebook. Quando non sa cosa fa, io ma che segna tanto sono pubblicenni, venni, oi, fa caridare. No, noi siamo andati a fare la spesa, siamo già pronti, ceniamo, siamo già lavati e cambiati, stirato, piegato. Mi siamo qua proprio di fronte alla piazza, insomma interrato, si è interrato dentro in camera da letto, con la figlia, con la ogibera sollevata. Di cui una sarebbe barriata, tanto la mia lì lo spin, no? A cui si barriata leva, siamo arrivati lì a metà via del Porto Torres per prendere la bretella e lì era asciutto. Eia, te lo so pure bene, vabbè, la gente comincia a venire, ma ti vede nero tranca, speriamo, io auguro che non piovia. Lucco, la rida, rimanco un po' careggio, Ma voi ce l'avete le finestre dalla parte della piazza, sì? Ehi, che viraggio! Viraggio che sta di camera da letto, che sta di salone, e a voglia se vedi per da me. Che voilà, quella... dov'è? Punto alto. Ma dove Ah, ecco, quelle che c'hanno... Quelle ho capito, sì. Praticamente a livello del terrazzo, giusto, Pole? Così è, Pole, a livello del terrazzo c'era le finestre. Boh, non ho capito se sono quelle, se non vuole più, insomma. Ah, mi stai salutando, Esci a vedere, ciao, ci vedi? Già ti ho visto, Pole, là, questa è la manina. Ma caridai, Lu, oh, raga, bisì. A Roma con un terrazzo un po' con i fiori, mi raggi tutti puliti oggi. Però questo è un travaglio, me, catta, non è semplice, mettergli l'acqua, pulirli, tenerli conto, non è una cosa semplice. No, ma io rimani pulito, lui, a chiamare tutto fiorito, compreso, sono scendi tutti i fiori, a chi io non ho più posto di questi raffiscanti che ti faccio un bel di mondezza, compreso, no, non ho più posto di vista, che se no si faranno i buchi di piani di osso e non aggiungare, ma i buchi sono tutti i pompieri, a chissà, di un primo piano ne è parato tutto il mondo. E allora sa fa cosa lui, a chi fa? Due cucciucci di ravvigliura, no? E allora sa cosa fa? Invece di lavare con il frazzo, ugnati lampade secchi leva e quindi assorbito e ne farà tutto, beh. Secchi leva, no? Capisco che piove, va a far Napoli, va a buttare acqua così, no? Poi magari non so se ha l'impermeabilizzazione sotto. Ma a proposito, su, l'hanno messo a posto il tetto, no? Ancora no? No, sono giunti i pompieri a rimana, vai che si li devi vini ricchi di lente popolare, boh! Eh beh, si paga di l'affitto dei minivini per forza. Non ci compreso, no? Sono appigliati di anno. Ma lui me la capisci, no? Che sei in cantuso, no? In tre. Vanno i rubizi, vidano i ricchi e lampano e va così. A me, a chi tu, aspetta se tu. Sì, tu vedi altri da razzi, sì, un po' gareduci, però è da... E chi si sono esagerati, allora? Se tu mette ti gli fa la vibra da razza. Vari bisogni. Ma cosa fai? Tanto li buri. Puri tutti si lampa, leva i lui la vitrata, fa scendrenzi, e deve essere, non fa che li scogli, perché la leva che fa la tutta giorno, ti piace a te. No. Questa cosa che ce l'hai detto comunque qua. Ma che disini, lui disini, non si può parlare, non ha consumito, ma vai a finire in ira, lui che si vede questi casi, si può un lumino, batti in cantuve, ma tu, veramente non si può parlare, a te ti devi venire a bianchinare a casa, ma buffonelli. Cazzo, che fai una in oggi, una piscina di nuda, un compagno va a una vigliora e ti dà proprio un tarrazzo, allora c'è la tarrazza mia, amico qua. Cata, ma si vede di sudare l'altro, non si pone le mani in capo. Ma quando mai è il resto di dare di condizione? Scusa, pure Dio, vaga che cosa, invece no, vaga ne cresci l'eba, vaga ne cresci un po' di cosa, lui, da voi, si lamenta né mi entra l'acqua dentro, e per tutta se non pure, scusa, Cioè, loro fanno le cose di fuori, poi... Se mai hai un problema nel bagno, magari non ti sente bene l'acqua, oppure ti si rompe un tubo che tu non lo puoi riparare, intervengono loro. Ma mica venire a farti a imbiancare l'appartamento. Ma non vedi niente fissata, va per me, chi su di lente popolare, ti è in occhio, non si sa che la cazzata è... Cuccaccioni e la capisci. Dove ne ha stracciato il cartone catravasi, per forza lo devono fare, perché se quello lì poi assorbe fa ancora più danno, Eia, dentro è tutto marcio, dove scendiamo nelle scale lui, è tutto già marcio, capito? Ma ormai è assorbito, è qualcosa che c'è, ne scende tutto, devi dire due a te. Aspetta, Maria mi sta dicendo, dice che c'è un danno qua, c'è adesso. Là da su, infatti sta entrando acqua, sta entrando acqua, cioè sta entrando acqua qua, non me ne sono mai accorto, è vero. Vabbè, insomma, questi palazzi alla fine sono così, non sono messi bene, vogliono ogni tanto controllati, se fare qualche lavoro basta intervenire. sì, però il catrame, lui, ci vuole sopra, ci vuole sempre il catrame, quando si consuma, a noi 2 anni me l'abbiamo messo il catrame, me la posso dare a pure meno, il catrame è per di me, vedete se ne appuntini, no, se ne vuole i punini, io mi servetto. Adesso appena che fa le belle giornate tutte belle calde, me lo di nuovo fare, me lo passo con quel pennello grande, il catrame verde, quello a liquido, mica è buono. E non mi interessa per non perdere la mia nipote. Boh, poi si vuole venire, venga a lui, se non vuole venire, si la vediamo in giro di due, avrà voluto usare principio fare una macca. E poi, quando mai non sanno che sono venuti 4 volte qua i pompieri, loro dice che hanno registrato tutto, boh. Dai, che stanno aspettando che succeda il peggio, ecco. E allora, rimani in casa, sai cosa facciamo a dire i puntini? A chi si sumamento, vieni la figliura, e mio figliolo, e quindi mi deve fare un pezzo quasi si lascia di seggia. E io non credo. Uia. E vabbè, se nel caso, io spero che non sia mai niente, nel caso sia da qualcosa, basta denunciarlo. Vabbè, sì. Quello è sicuro, lui, a tutti i dini. Chi dice un pezzo in questo buio a tutti i dini, che non va a durare un pezzo. Anche ormai è tutto macchio dentro, capito? Nelle scale, si può macchiare tutto proprio. Ebbene, tanti anni è già, si c'è avvistione. Quindi, ora che ne farà due nove più catramo, figurati tu cosa è. Io spero che il tempo cambi. Perché se il tempo cambia, fa caldo, asciuga, gli conviene intervenire e fare quello che devono fare. Se no, al prossimo anno io penso che mi riparia anche tu in capo di tutto. E beh, se quando c'era il catrame aveva tutto asciutto, lui, avevamo anche tutto imbianchinato, in bianco, tutto qua, ma si vedeva il romontinaggio, perché non c'è catrame e quindi l'acqua sta assorbendo. Eh beh, l'acqua è maledetta. E da poi che ci va con i vani posto, va di neri fissi, cacca dentro, Eva, da rigugiori di osso, mi sia da una parte sia dall'altra. Ma cosa tu ti fai là? Di voglio incasciare, però è PD, mi sa che sono un po' molto lungo muro, né più né meno. Già va che ti devi venire, pensava che non avvenire lui, ma vai, no, a chi ti sta tutti che intervengono per guardare, dice, la situazione, e abbagliano, E chissà, magari me la mettono a posto, dai, vai, Qua c'è una bella perdita, sta entrando acqua dentro il palazzo. Ehi, a chi sta parando c'è in due di voi, ma non muro, visto la vita? Mamma mia, speriamo che non capita già quando si passa qualcuno su muro. Ma che questo muro è a qualche crullare, Milo? Lo so, sicuramente siete andati tante volte a lamentarvi. Ma se non intervengono, è strana la cosa. E beh, lui? Ho parlato, non mi hai sentito? No, erano i ficcenni, ficcenni, ficcenni. Ho detto... E sicuramente sei andata tante volte a lamentarti. E allora? Ci metto pure un casino. Ah, ma che tu manco che vedi, ti fai uno, non so che figlio lui è, ma ti fai sempre, una volta che andano in lui, ti fai sempre il gusto. E non concludo un cazzo. Ma tu vai a prendere un Baribelli? Già sono andati a un bel di niente a prendere un Baribelli, non ti preoccupare. Mi stava cattando e da di tu si andi a mangiare un fiago di ricordo di vivra da mangiare, infatti si è sempre goto. E infatti l'andura di ultimamente visto che andata vado a mandarli a di là, vedete come si mai non avviene mandato di controcorrenti di affitto. Era già partuto lui. Non si preoccupi che ne mangiamo. Quello che abbiamo, fiago di vezza. Che dire ogni adì? Quelli hanno più fortuna, vedi? Mi pare che già detto, si chiama direttore, mi pare ma già ne dico. Un po' di gente si è andata. E dice quasi erano i costumi. A che si fa sempre il gozzo, non comprendi nulla. Per carità, direttore, sta sarei su. Mi pare che idea, ma non me la metto sette toro come ti dice già, ma comunque le rane di geni pure in chiedica di sto cantata lì. Così ti sei sempre così, ma da poi ti dice che è extravaganti pure. Poco da fare stravaganti, beh, tu paghi, e la paghi l'affitto, a poco da va. Se c'è qualche problema, devo intervenire. Ma ti non era tutto nudo, Luca, sai cosa dici? Ni signora. Qua è tutta forte, tutto imbiancinato, tutto. Bella, c'è tu, io credo se me lo faccio mio marito. Beh, certo che voi abbagliate, però non abbagliate di danni. Se si verani, che vi sono stati e stanno a contro noi, Luca. La giudizia ha visto, non hai compreso. Allora verrà un attimo. E invece avrebbe visto. Chissà che si mettono d'accordo, bocca a fare qualcosa. Graziano, con parentesi. Se non posso fare nulla, lui. E quindi se me ne sto con più bello, che del campagna, in campagna non si parla tanto facile. La campagna è bella per quello, nelle belle giornate, no, nei giorni di pioggia è freddo. Ah, oh, che questa non lo prepara. Non fatti bene. No, infatti la campagna è bella, no? Quando metto il bugaggio uno che ti ammazza. Però belle giornate, là, primaverili. Bene, l'anno passato già me l'ha giubilato, abbastanza. Ci vuole un po' di sole, andare al mare, mangiarti i piedi. Già fa bene, dai, una passeggiatina. Una passeggiatina. Più mezzi, peccato, ragazzi, peccato. Sì, ma la gente sta cominciando a venire lì. Se già bene, magari si pigliano in ombrello e se ne cadono invece altri fusati, magari. Quindi asciutti si può neppure fusare. Allora noi mangiamo a preparare, tanto poi alle 9:30 devo salire a fare la foto da mamma. Poi vediamo il visto dal circolo come sono messi, secondo me sono messo da pochi. Domani finisce verso mezzanotte e mezzo, bisogna attaccare. Io ma pezzi già fare, secondo cosa abbiamo raccolto. Vedo un po' che abbiamo innato, prima verso l'ondici, secondo cosa abbiamo. A che tanto poi farà già sappiamo Ludurroni, voi Graziano, che sono molti. E infatti si intendi lui, già a fiago di Magnami, sto già preparando le giorno. Ehi, faranno panini sicuramente, panini quelli di usa, cipolle o salsiccione, o carne di cavallo. Allora. E noi Maria sta già mangiando la pizza, adesso la mia è in forno. Va bene, dai. Saluto allora, saluta ma Marina, ciao Mari. Se ci troppo giù, se non piove, se non mi vedi vuol dire che l'aria mi sa che se tu venni a inventiare. Ciao Pale, buona cena e poi se scendi. Mi sa che stai prendendo anche la batteria perché stai facendo male, Pale. Sì, allora rubo tu carica a ciccio. Se figlia di l'usore, la batte di cucina per l'usore, la pastosa. E avanti, fra poco, si fate l'insulina e mangi. Va bene, va, vi saluto, buona cena. E non ci vediamo. Buonanotte, Luca e Marina, ciao. Ciao, ciao, Polè. Un altrettanto a voi, ciao, ciao.